Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Tra poco il Papa sarà a Torino per rendere omaggio, come i suoi predecessori, alla Sacra Sindone. Benedetto XVI celebrerà la messa in Piazza San Carlo, incontrerà i giovani. Passio Christi, Passio Hominis è il tema di questa ostensione. L'arcivescovo di Torino, il cardinal Severino Poletto. Gli uomini sofferenti, la Sindone dice che Gesù ha sofferto più di tutti e che lui è il primo innocente dell'umanità, l'innocente per eccellenza. Per cui se il Signore ha scelto la sofferenza, significa che la sofferenza ha un valore, ha un significato. Quindi questo è il messaggio che la Sindone trasmette, che è un messaggio di speranza, di fiducia e anche di forza nel sopportare la sofferenza, perché anche se non sempre riusciamo a spiegarla, ha sempre comunque un significato, perché il Figlio di Dio, facendosi uomo, si è addossato la sofferenza, oltre che i nostri peccati, per espiarli. In tanti, presso la Fiera di Rimini, stanno partecipando alla 33esima convocazione nazionale dei gruppi e delle comunità del rinnovamento nello Spirito Santo, il movimento ecclesiale che in Italia conta oltre 200.000 aderenti. È lo Spirito che dà testimonianza, perché è la verità, è il tema scelto per quest'anno. Il presidente nazionale Salvatore Martinez. È in calo l'amore per la verità, e anche quando di amore, di misericordia, di giustizia si va trattando e ne trattano ogni giorno gli uomini, anche coloro che religiosi non si professano, questa deve avvenire nella verità. E se è in crisi la verità sull'uomo, è in crisi la verità su Dio e viceversa, ma è anche in crisi la verità sulla possibilità di avere una vita buona, una vita felice, una vita che vale la pena vivere fino in fondo. C'è uno spirito di morte che sembra ammorbare le coscienze dei giovani, delle famiglie, la crisi dell'economia, la crisi morale, sono tutti effetti e conseguenze di uno spirito di menzogna che spesso c'è sulla storia e che proprio la verità è chiamato a fugare. Pertanto è quasi una pedagogia rieducativa quella che di anno in anno noi proviamo a realizzare nel corso delle nostre convocazioni. In fondo la prima e più importante verità per l'uomo è sapere vivere e trasmettere agli altri l'arte di vivere. C'è una relazione strettissima tra verità e vita ed è per questo che se c'è spirito di menzogna c'è anche spirito di morte che aleggia nella storia. È un momento difficile anche per la Chiesa. Sì, anche la Chiesa ha bisogno di rinnovamento e non dimentichiamo che questo movimento nasce alla fine del Concilio come un auspicio di rinnovamento per la Chiesa e per il mondo. Per la Chiesa, lo disse Paolo VI nel 75, per il mondo nel 1986 Giovanni Paolo II. E oggi, sotto il pontificato di Benedetto XVI, proviamo a riaffermare la nozione di rinnovamento. In fondo è una delle parole più usate, talvolta anche abusate, si parla di ogni forma di rinnovamento. Si tratta di chiedersi intanto se il cuore dell'uomo, la dimensione interiore, l'uomo che è spirito e non solo carne e materia, sia disposto a rinnovarsi. Veda, noi più che rinnovare le strutture preferiamo rinnovare gli uomini. Se il cuore dell'uomo, l'uomo si rinnova, egli sarà capace di rinnovare ogni struttura e la storia intera. L'Italia ha deciso di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo contro la decisione che ha imposto di togliere il crocifisso dalle scuole. A Padova il MEIC discute proprio di laicità e ruolo della Chiesa nella vita pubblica. Il presidente Carlo Cirotto. La Chiesa deve muoversi come organismo sociale tra gli altri organismi sociali. Cioè trovare un linguaggio basato non sulla fede, ispirato dalla fede, che è un'altra cosa, seguendo motivazioni razionali, in modo tale da non bloccare il dialogo, ma in modo da cercare insieme l'unificazione delle diversità. Negli ultimi tempi è stato fatto? Io direi che molto spesso viene fatto, soprattutto dal Papa attuale. Le società non possono essere trattate come si trattano gli individui, intanto. Quindi valgono regole diverse, principi diversi, criteri diversi, che sono anche molto più difficili da scoprire perché non siamo abituati a parlare in questi termini e quindi ci vuole allenamento. La Chiesa deve dare il suo messaggio di salvezza. Il messaggio di salvezza di Cristo non è neanche il messaggio di salvezza della Chiesa, lo deve dare pena il suo fallimento. Questo messaggio di salvezza però non interessa il piano, diciamo, di competenza delle organizzazioni sociopolitiche, per esempio. Di volta in volta si tratterà di, e lì sta il problema, di mettere insieme le esigenze del regno di Dio con le esigenze dell'organizzazione sociale. È la battaglia che si sta facendo per il crocifisso. La polemica lei come la vede? Se la laicità viene intesa come concedere la esistenza a ogni tipo di organizzazione, riconoscere la validità a ogni tipo di organizzazione eccetto quelle religiose, beh, allora questa non è laicità, questo è razzismo. E in questo discorso entriamo con il discorso del crocifisso. Se a quell'immagine viene attribuito un significato di valore civile che ricorda tutto un passato, ricorda una civiltà, ricorda una tradizione, beh, allora basta mettersi d'accordo e lo lasciamo, insomma. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Mi ha fatto riflettere l'articolo del Sole 24 Ore del 14 febbraio a firma di Sergio Luzzatto dai titoli Miracoli di fede e di scienza, in cui si propone la lettura di un libro del non credente Émile Zola, Viaggio a Lourdes. Émile Zola parla delle visioni di una ragazzina, Bernadette Soubirous, le cui visioni hanno fatto sbocciare dal niente una città e hanno fatto muovere milioni di persone. Quello che incuriosiva comunque il non credente Émile Zola è il rapporto tra salute dell'anima, salute del corpo e salvezza della vita. Ma la sua curiosità maggiore era rappresentata dall'Ufficio delle Constatazioni Mediche, istituito presso il santuario già nel 1882, a cui furono chiamati a partecipare per verificare le guarigioni miracolose anche dei medici agnostici. Eppure l'ateo Émile Zola si trovò a constatare di persona la guarigione immediata, definitiva e scientificamente inspiegabile di due donne che la medicina aveva dato per spacciate. Ma pur avendo visto, non volle mai ammetterlo. Non fu così invece per un altro attento indagatore della vicenda di Lourdes, questo sì medico e anche premio Nobel, Alexis Carrel. Anche lui, partito colmo di pregiudizi per Lourdes, quasi per scommessa assiste alla guarigione di una donna all'ultimo stadio di vita per tubercolosi ossea. Racconterà il fatto solo 30 anni dopo, cui aveva assistito dal momento che gli ambienti scientifici e medici non potevano sopportare una fede nella fede che sembrava incompatibile con la fede nella scienza. È proprio vero che le constatazioni sono inutili per i credenti, ma sono insufficienti per gli increduli.